in zona 4 viale Fornalini, goleador brioche, due granite di papaya, la spiaggia è una Moleskine mista, glitter e la baia, pacchi di carta da imballaggio, Malindi Ose e Sega Mega Drive. I cartoni di Tavernello come foglie, l'isola e i fiori neri nella fontanella, gli Smarties sono banchi di pesci nella tua bocca. Tropicali di gennaio, il tuo orologio disegnato sul polso e quanto sei brava a giocare a Tetris con le stagioni. Però ci andrebbe di fare un collage tra i nostri cuori, e oggi l'estate è una sigaretta. Le tinte per capelli e i campi di basket, cameretta Manchester dell'83, i cavalcavia Moji, le Nike Moji, le tutte Moji e palloncini neri al posto del silenzio, come un milkshake che cade sui disegni di Pierpane.